Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo, ogni tanto capita, anche di buone notizie. La principale, come hanno già ricordato i nostri GR24, è il dato sull'export. Il consuntivo 2016 è molto buono per l'Italia, ossia la differenza tra quanto abbiamo esportato e quanto abbiamo importato tocca un nuovo record da 25 anni, ossia da quando misuriamo il surplus dall'inizio di queste serie storiche, dal 91, non era mai stato così alto, 51 miliardi e 600 milioni di euro contro i 41 miliardi e gli 800 milioni dell'anno scorso, quindi la differenza tra export e import è cresciuta a vantaggio appunto nostro di altri 10 miliardi, questo grazie soprattutto, lo dico perché poi ne parleremo, all'export verso l'area dell'Unione Europea, ma poi arriveremo al tema. Parleremo anche di, da questo punto di vista, di altre iniziative che riguardano investimenti in questo paese. Qualche giorno, che saranno anche coincidenze, in cui commentiamo investimenti fatti, mi riferisco per esempio oggi al gruppo Barilla, ma anche al gruppo Conad, e ne parleremo con l'amministratore delegato di Conad, sempre sul fronte delle buone notizie segnalo che oggi sono arrivati anche a Fincantieri ordini per quasi 5 miliardi di euro da parte di Norwegian Cruise Line Holdings, le unità hanno un valore appunto di 800 milioni di euro ciascuna, 4 navi da crociera. E verranno consegnate a distanza di un anno dall'altro, tra il 2022 e fino al 2027. Di Barilla abbiamo detto, ma ricordiamo, 50 milioni di euro per 60 assunzioni, un impianto praticamente per la pasta, per i sughi per pasta di Rubiano, inaugurato nell'ottobre 2012, tra l'altro le vendite sono cresciute del 45%, il 75% anche qui destinato all'export, e saranno coinvolti anche i sindacati in questo investimento, verranno appunto fatte a 60 assunzioni rapidamente nei prossimi mesi. Per quello che riguarda, devo dire, altre notizie sulla nostra economia, segnalo anche che oggi sono usciti i dati del settore del legno arredo, uno dei quattro assi portanti del nostro Made in Italy, alla vigilia del Salone del Mobile. Nel 2016 le quasi 80.000 imprese del comparto hanno aumentato il fatturato di quasi il 2%, per un valore complessivo di 41 miliardi, e anche l'export ha fatto più 1,5%, che si confrontava con già 5% in più del 2015. Il 70% delle imprese ha investito in ricerca e sviluppo, questo emerge dai dati appunto di Federlegno Arredo. Partiremo però dalla notizia oggi in apertura sul Sole 24 Ore, mi riferisco al fatto che il Parlamento europeo chiede alla vigilanza europea di migliorare gli stress test sul sistema bancario, e in particolare la cosiddetta valutazione dei titoli di livello 3. Che cosa sono? Sono i famosi titoli derivati non trattati sul mercato, e quindi possono avere un prezzo solo attraverso dei modelli di autovalutazione delle banche. Un tema molto delicato, ne abbiamo parlato molte volte, per esempio nel caso di Deutsche Bank, che ha un valore di titoli di questo livello calcolato in circa 30 miliardi di euro, e in generale la Germania risulta il paese più esposto, con il 34% del capitale delle banche, il doppio rispetto all'Italia, e è molto superiore anche al 20% della Francia. Noi abbiamo il problema dei crediti deteriorati, lo abbiamo a livello altissimo europeo, il 16% degli impieghi, 4 volte la Francia e anche 8 volte la Germania. Non abbiamo, o abbiamo in maniera molto minore, il problema dei titoli, non dico tossici, ma titoli derivati che non vengono trattati sul mercato. Questa stretta del Parlamento europeo è conseguenza anche di un ragionamento fatto in questi mesi e anni, per cui gli stress test andavano a penalizzare molto chi aveva sofferenze bancarie, cioè chi aveva prestato soldi. Lasciamo stare che in alcuni casi questo sia avvenuto in maniera non corretta, ma prestito soldi alle imprese, andava comunque a penalizzare i prestiti alle imprese come accantonamenti che devi fare. Mentre questo vale più per la direttiva europea sui cosiddetti Basilea 2 e la vendetta, ma andava a essere più indulgente nei confronti di chi ha i titoli tossici o a rischio, che sono i titoli che hanno creato la crisi del 2008. E da sempre si è detto, beh, in questo modo penalizzi il modello di attività bancaria in Italia, che prestano soldi a molte piccole e medie imprese, quando riescono a farlo, è più esposto verso quel tipo di prestito, perché noi abbiamo un tessuto di impresa fatto di piccole e medie imprese, e vai ad avvantaggiare le banche, per esempio tedesche. Ne parleremo appunto in apertura. Poi dopodiché, come sempre, la borsa, che oggi è, per quello che riguarda Milano, sostanzialmente invariata, sopra i 19.000 punti l'indice, Parigi meno 0,60, Francoforte meno 0,50, Londra meno 0,30, Dow Jones meno 0,20%, euro in leggero rafforzamento a 1,0674, Saipem più 3,3, Recordati più 1,60, Steam Microelectronics più 1,5, Enel più 1,20, Terna più 1,20, come A2A, Leonardo più 1,1, Atlantia più 1%. Ancora chi va male oggi? Unicredit perde 3,30, Biper Banca il 3%, Ubibanca meno 2,80, Prismian meno 2,30, Yux Net-a-Porter meno 1,70%, come Buzzi Unicem. Parleremo tra i temi anche di alcune cose che si stanno muovendo, devo dire, delle volte capitano come coincidenze, tutte nella stessa settimana o nella stessa giornata. Oggi presentato a Milano l'accordo a 100 milioni di euro tra H-Farm, che è questo incubatore che è stato sviluppato in Veneto, molto conosciuto, poi ne parleremo, è una piattaforma digitale, incubatore di start-up, ha sede a Venezia, se non ricordo male a Catron, non è proprio Venezia. Ma insomma, detto questo, l'accordo darà vita all'H-Campus, quindi il più importante polo dedicato all'innovazione a livello europeo, sostenuto anche dalla partecipazione di Cattolica Assicurazioni, deterrà il 56%, e la Cassa Depositi e Prestiti Investment SGR, la CDP Investment SGR, che deterrà l'altro 40%. Sarà inaugurato a settembre 2018 e sarà in grado di ospitare 3.000 persone tra studenti, giovani start-upper, docenti, imprenditori e manager, un'area di 40.000 metri quadrati. Importante, perché noi ricordiamo, lo faremo anche domani dopo la poco invidiabile classifica, portiamo sempre un caso di startup, però quello che spesso abbiamo lamentato è la mancanza anche di un polo vero e proprio, dove, perché le startup vivono anche per contaminazione di idee, per gemmazione, ma contaminazione di idee. E quindi volentieri affronteremo anche questo tema. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con le notizie in breve. Sì, parleremo anche dei tassisti, ma non solo, anche di altri temi. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Il numero degli occupati è record in Germania, chiaramente non in Italia. A fine 2016 è il nuovo record dalla riunificazione. Per gli occupati tedeschi hanno raggiunto i 43.700.000 persone. Per quello che riguarda invece i nostri conti, alcune fonti europee dicono: attenzione, nonostante la revisione a rialzo del vostro PIL, non è detto che cambiamo atteggiamento e che cambieremo atteggiamento e chiederemo comunque all'Italia una correzione dello 0,2% sul deficit, vedremo. Ma dicevamo in apertura del commercio con l'estero, e allora i dati assolutamente da record, 51 miliardi e 600 milioni, vedono nell'intero 2016 aumentare l'export verso gli Stati Uniti, il surplus, cioè la differenza tra appunto export e importazioni, è salita del 2,6% a 23 miliardi. Anche in Germania abbiamo esportato il quasi 4% in più, però lì siamo in deficit, cioè importiamo ancora più di quanto esportiamo, per una differenza di 6 miliardi e 700 milioni. In Francia invece c'è un surplus, più 3% l'export e un surplus nativo commerciale appunto di 11 miliardi. Gran Bretagna più 0,5, anche qui abbiamo un surplus di 11 miliardi. In Cina abbiamo aumentato l'esportazione del 6,5%, ma restiamo in deficit, cioè importiamo più di quello che esportiamo, per una differenza di 16 miliardi. In Giappone abbiamo fatto quasi il 10% in più di export e resta un surplus da 2 miliardi. Nei paesi OPEC, lì ha pesato anche il prezzo del petrolio nel 2016, abbiamo fatto un meno 7% nell'export, ma restiamo comunque con un surplus, con un avanzo tra export e import per 2 miliardi. In Russia invece sono ancora dolori, e qui pesa l'embargo per via della vicenda ucraina, meno 5%, restiamo in deficit principalmente perché importiamo gas e materie prime dalla Russia per quasi 4 miliardi di euro. E su questo la nostra Enza Loddo ha intervistato Stefano Menghinello, direttore centrale statistiche economiche dell'Istat, che spiega appunto come questa espansione dell'export sia dovuta quasi esclusivamente ai paesi dell'Unione Europea, al di là delle polemiche sull'euro, e quindi molti paesi, quelli che ho citato, che hanno l'euro, e quindi non è dovuta a un effetto valutario, ma è dovuta anche alla capacità delle nostre imprese e dei prodotti che le nostre imprese vanno a esportare. A dicembre 2016 abbiamo registrato una sostenuta crescita delle nostre esportazioni pari al 2,3% in termini congiunturali, il segnale è ancora più alto in termini tendenziali, 5,7%. L'ultimo trimestre registra quindi un'accelerazione che ci consente di chiudere in termini positivi l'anno. Nel 2016 le nostre esportazioni sono cresciute dell'1,1% in valore e dell'1,2% in volume. Per quanto riguarda l'import, in valore registriamo una diminuzione dell'1,4%, ma un incremento in volume pari al 3,1, questo è connesso con la dinamica del prezzo dei prodotti energetici. I mercati più dinamici nel 2016 all'export sono stati Giappone 9,6%, Cina 6,4%, Spagna 6,1% e Germania 3,8%. Quindi nel 2016 anche alcune delle principali economie dell'area UE hanno riniziato a fornire uno stimolo alla crescita dell'export, mentre in precedenza era solamente l'area extra UE a tirare la crescita delle nostre esportazioni. E quindi questo è anche il segnale che non certo l'Italia, ma altri paesi dell'Unione Europea stanno conoscendo tassi di crescita più alti e quindi anche importano di più, importano anche più beni italiani. E restiamo sull'Italia perché oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, nel corso del convegno a porte chiuse Italy is now and next, organizzato a Milano a Palazzo Marino, hanno partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro degli esteri Angelino Alfano, ha detto: abbiamo avviato una task force tra governo, amministrazione comunale di Milano, Consob, Banca Italia e Agenzia delle Entrate per cogliere al meglio tutte le opportunità post Brexit. In primis c'è la proposta italiana di portare a Milano l'Agenzia Europea del Farmaco da Londra, perché da lì dovrà essere smantellata. Ha chiesto Sala al sindaco di Milano di fare squadra tra il mondo dell'impresa e le istituzioni. La vicenda dei tassisti e poi una notizia che riguarda la nostra occupazione, prima di passare al tema bancario. Allora, come i nostri GR24 stanno raccontando da questa mattina, disagi soprattutto a Roma, Milano e a Torino, ma anche in altre città, non in Veneto, leggevo, perché lì c'è un accordo regionale. Praticamente è stato bloccato l'intero servizio taxi a partire da aeroporti e stazioni. Che cosa è successo? Dentro il mille proroghe è arrivato un emendamento che ha scatenato la protesta, ossia un nuovo slittamento fino al 31 dicembre 2017 all'entrata in vigore delle misure che limitano i servizi di noleggio con conducente. Questa volta Uber non c'entra, nel senso stretto, sono gli NCC. La proposta di modifica, porta la prima firma della senatrice Linda Lanzillotta, specifica che vi sarà una proroga fino al 31 dicembre 2017. E il decreto ministeriale dovrebbe definire anche gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio da parte dei comuni dei titoli autorizzativi. Per cui, tornando all'emendamento, tra l'altro il testo proroga non solo fino a fine anno il servizio di noleggio con conducente, ma l'entrata in vigore del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. Allora, in detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare a disposizione dell'utenza esclusivamente all'interno della rimessa. Adesso io capisco tutto. E ho visto che l'autorità di garanzia per gli scioperi ha chiesto informazioni urgenti alle prefetture dei capoluoghi di regione sulle manifestazioni dei conducenti di taxi. Del Rio ha convocato i sindacati tassisti per martedì 21 febbraio. Una cosa va detta: l'emendamento era di ieri sera, per carità, però gli scioperi sono un diritto e quindi scioperino anche i tassisti, ma ci mancherebbe. Però ogni volta, non è la prima volta che commentiamo questa cosa, lo dico anche come esperienza diretta, visto che questa mattina mi sono spostato da Milano a Roma, ma lascia stare, chi se ne frega della mia esperienza. Quello che è inaccettabile è vedere come si vedeva a Milano, Linate, come si vedeva a Fiumicino, come la nostra collega Teresa Trillò è andata a testimoniare a Termini. Cioè, vedere gente completamente disinformata e non informata perché lo sciopero è stato decretato così, spontaneo. Allora, uno si accorge che c'è un emendamento, è contrario, annuncia per domani lo sciopero, in modo che tutti i cittadini, clienti dei tassisti, possono organizzarsi come? Utilizzando l'auto propria, mettendosi d'accordo con qualcuno. In questo modo, tra l'altro, oltre che essere inaccettabile per i vostri clienti, lo dico a tutti i tassisti che sono grandi ascoltatori di Radio 24, perché uno si sveglia la mattina e scopre che non ci sono i taxi, arriva in aeroporto, in stazione e scopre che non ci sono i taxi, tra l'altro in questo modo spingete tutti i clienti a correre ai ripari immediatamente, Uber, NCC, a chiamare al volo, mentre se aveste annunciato per domani, per dopodomani, uno sciopero, come si fa in questi casi, cioè non all'improvviso, magari uno si organizzava in altro modo e non era obbligato a ricorrere subito alla prima soluzione possibile a qualunque costo. Lo dico anche per voi perché sappiamo che poi molte volte tramite gli scioperi fatti all'improvviso molti clienti di tassisti hanno scoperto il servizio Uber o hanno scoperto il servizio NCC, per cui mi sembra anche leggermente controproducente, oltre che inaccettabile per i vostri clienti, perché ripeto, gli scioperi si fanno ma si annunciano. Questo vale per tutti gli scioperi, lo dico a chi sta scrivendo, anche per lo sciopero che ogni tanto vediamo del trasporto pubblico, è annunciato con anticipo, non è che uno si sveglia la mattina e scopre che non c'è il tram, non c'è l'autobus. Allora, per favore, andiamo avanti con invece una notizia che mi lascia personalmente molto molto perplesso, perché abbiamo già raccontato lo sfogo dell'imprenditore veronese Christian Gaifa, che non riusciva a trovare giovani per la sua catena di ristoranti giapponesi Fusion, che si chiama Zushi, 21 locali sparsi in tutto il nord Italia, e ha fatto un'intervista, è finita su tutti i giornali, è ripresa da tutti sulle interviste che faceva ai giovani, e quella che gli diceva: no, non posso venire a colloquio perché ho già prenotato una vacanza. Un altro ha detto: ma è un chilometro da casa mia, è troppo distante. Altri che arrivano al colloquio con la fidanzata e il fidanzato, vabbè. Un'altra che era stata presa come prima esperienza lavorativa e poi ha rinunciato prima di cominciare perché il padre le ha regalato una casa. Non regalate le case ai figli. Ma oltre a questo, oggi c'è una notizia che è in questo solco. C'è un istituto a Erba, in provincia di Como, che si chiama Istituto Romagnosi. È da sempre un istituto di eccellenza per il corso per elettrotecnici. In 10 anni ha partorito, tra virgolette, 350 elettricisti. Tutti hanno trovato lavoro in tempi brevi nelle aziende della zona. Dal prossimo anno scolastico, lo denuncia il preside, che si chiama Carlo Ripamonti, forse non riusciranno neanche a attivare una classe, perché ci sono solo 8 prescritti al corso e la classe deve avere almeno 20 persone. Il preside ha ricordato che è un corso valido con sbocchi sicuri nel mondo del lavoro. Gli studenti sono tutti innamorati dell'idea di frequentare i licei, eppure ogni anno riceviamo richieste da 25 aziende della zona che vogliono assumere. E già l'anno scorso avevano rischiato di non aprire perché erano arrivati al limite con gli iscritti 16, poi grazie ai ripetenti erano arrivati, in questo caso non devo dire grazie ai bocciati, erano arrivati alla soglia dei 20. Tra l'altro il caso della scuola di Erba non è isolato. I primi dati sulle iscrizioni alle superiori indicano appunto il 54% dei ragazzi vuole fare il liceo, il 30% istituto tecnico, 15% la formazione professionale. Ora uno, è ovvio che anche qui uno fa la scelta che vuole, però guardare anche al mercato del lavoro non è una cosa sbagliata, e fa specie che con richieste di 25 aziende questi, l'istituto di Erba non riesca forse neanche ad aprire i battenti quest'anno perché gli mancano abbastanza studenti per la classe, con i tassi di disoccupazione che vediamo, con i tassi di NEET, soprattutto giovani che non studiano né lavorano. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo con il primo approfondimento, e mi riferisco al Parlamento europeo che chiede alla vigilanza europea sul sistema bancario di avere stress test più duri per le banche, in primis quelle tedesche, che hanno molti titoli derivati non trattabili sul mercato. Allora, il Parlamento europeo, e oggi l'apertura del Sole 24 Ore, chiede alla vigilanza europea di migliorare gli stress test, in particolare la valutazione sui titoli di livello 3. Vista così uno dice, vabbè, ma chi se ne frega? No, perché come dicevo prima, ci siamo per anni, anzi negli ultimi anni soprattutto, abbiamo criticato un'autorità bancaria europea che era molto dura sui meccanismi, sui prestiti fatti alle imprese, dura sugli accantonamenti che deve mettere da parte perché considera ad altissimo rischio il prestito alle imprese, è molto più tollerante, molto più morbida per la presenza di titoli, attenzione, sono i titoli derivati non trattati sul mercato, quindi che possono essere prezzati, possono avere un prezzo solo attraverso modelli interni alle banche, quindi di autovalutazione. Deutsche Bank di questi titoli ne ha circa 30 miliardi, l'ha dichiarato lei stessa. La Germania è il paese più esposto a praticamente asset di questo tipo, che rappresentano il 34% del capitale delle banche, il doppio rispetto all'Italia, e anche la Francia che ne ha solo il 20%. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera. Un saluto a te e agli ascoltatori. Allora, gli obiettivi del rapporto li ha spiegati Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economico-monetari all'Europarlamento, al microfono della nostra Anna Marino. La risoluzione votata dal Parlamento europeo è molto importante, soprattutto da un punto di vista, perché chiede con molta nettezza che la vigilanza unica europea affronti finalmente un'efficace valutazione di questi titoli cosiddetti di livello 3, che sono dei titoli molto complessi, che sono soprattutto posseduti dalle banche fortemente impegnate, diciamo così, nelle attività di mercato più che in quelle di credito, perché se no si ha il risultato che la vigilanza unica magari è più dura con quelle banche che sono più vocate, come quelle italiane, ma non solo italiane, all'attività commerciale, cioè al credito, all'economia reale, e meno severa nei confronti invece dell'attività di mercato più speculativa, che va anch'essa vigilata in modo rigoroso. L'Europa bacchetta in questa risoluzione anche gli attuali stress test. Occorre con attenzione, diciamo così, definire gli scenari di rischio e di stress, valutare quando questi stress test poi in qualche modo si sono rivelati corroborati dai fatti successivi, in modo da evitare, diciamo così, una traduzione troppo meccanica di stress test che spesso sono fatti su scenari molto estremi e che di nuovo si riferiscono soprattutto a questioni che poi vanno a penalizzare l'attività commerciale. Quindi la finalità è monitorare l'unione bancaria, ma anche tutelare i clienti delle banche europee. Naturalmente avere un'efficace vigilanza deve servire da una parte avere banche solide capaci di erogare credito e quindi non, diciamo così, colpire in misura smisurata la capacità delle banche di effettuare credito all'economia, allo stesso tempo garantire che le banche siano solide e quindi che poi i clienti, i depositanti siano tutelati. A che punto è il progetto dell'Unione Bancaria? È molto avanti dal fatto che in pochi anni si è realizzata una vigilanza unica, adesso abbiamo anche un meccanismo unico di risoluzione con un fondo unico di risoluzione, un cambiamento veramente rivoluzionario realizzato in pochissimi anni. Dall'altro lato questa Unione Bancaria è ancora incompleta perché, come è noto, manca un meccanismo, un sistema unico di garanzie dei depositi. Io penso che l'obiettivo deve essere quello entro la fine della legislatura, la fine della legislatura è il 2019, dovremmo anche concludere prima, ma insomma il sistema unico di garanzia dei depositi deve essere legge. Allora, Luca Davi, resta ancora con noi perché ho messo la pubblicità e poi cerchiamo di capire quanto, non dico potrebbe avvantaggiare l'Italia, però quanto di giusto vi sia in questa richiesta del Parlamento europeo alla vigilanza europea, visti gli stress test, visto quello che è successo anche in Italia e che cosa potrebbe capitare alle banche a partire da quelle tedesche. Devo dare due risposte al volo al 349-238-6666. Allora, nessuno ha detto che quei tre ragazzi che hanno rifiutato il lavoro dell'imprenditore veronese rappresentino tutti i ragazzi italiani, ma figuratevi, faccio notare che lui è stato inondato di richieste di offerte di lavoro, di richieste di lavoro da persone soprattutto sopra i 45-50 anni dopo quegli articoli. Qualcun altro mi scrive: ma lei è contro il riscatto sociale in riferimento ai licei? No, assolutamente no. Abbiamo spesso detto che in questo paese si è bloccato il cosiddetto ascensore sociale, però il primo riscatto sociale è anche il lavoro, nel senso che se tu poi fai una scuola che non ti porta a trovare un lavoro, puoi anche vantarti del tuo diploma, ci mancherebbe, ma poi vai a fare lavori diciamo assolutamente non inerenti al tuo curriculum professionale. Io dico semplicemente: ma è possibile che con questi tassi di disoccupazione giovanile non debba o rischi di chiudere un istituto che riceve così tante richieste per periti elettronici? Tutto qua, no? Mi sembra incredibile. O sarà la situazione di Erba a piena occupazione, o forse c'è anche un ragionamento poco pragmatico tra chi dice: no, preferisco mio figlio vada al liceo anche se rischio la disoccupazione piuttosto che avere un'occupazione immediata. Comunque, meteo, pubblicità e poi veniamo alle conseguenze di questa richiesta del Parlamento europeo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti. Allora, Luca Davi, che cosa potrebbe cambiare, che conseguenze potrebbe avere questa richiesta, questo voto del Parlamento europeo alla vigilanza europea sul sistema bancario? Quello che potrebbe cambiare lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi e forse già l'anno prossimo, perché il prossimo stress test dovrebbe essere tenuto proprio nel 2018. Lì si capirà esattamente se questa proposta, questo monito del Parlamento europeo verrà appunto insomma accettato e quindi fatto proprio dalla vigilanza. Di sicuro, se ci fosse, come sembra appunto, un'introduzione di uno stress test che dovesse accogliere appunto anche l'analisi dei level 3, dei cosiddetti level 3, o cioè diciamolo un po' più semplicemente, di questi titoli opachi, strutturati, sono anche corporate bond complessi, ci potrebbe essere un impatto anche rilevante insomma su molte delle banche del nord Europa. Citavi prima le banche francesi, le banche tedesche, Deutsche Bank appunto, che ha un ammontare di titoli di livello 3 che sono circa il 60% del capitale di primaria qualità, cioè del cosiddetto CET1. Insomma, le conseguenze possono essere rilevanti. Diciamo una cosa, anche un piccolo retroscena che può spiegare anche quanto è complicato questo mondo. Nel 2014 la BCE, la Vigilanza Europea, tentò inizialmente di fare una verifica, un approfondimento su questo ammontare gigantesco, su questa montagna inesplorata che sono appunto sì, i titoli di livello 3. Decise in qualche modo, dopo un tentativo iniziale, di insomma abbassare, come dire, qualsiasi aspettativa e qualsiasi attesa, decise di lasciare così come aveva trovato le cose. Non ci fu più la forza, si disse che non c'erano le risorse per andare ad analizzare in profondità questo tipo di attivi bancari, probabilmente per la loro complessità. Altri oppositori dicono i detrattori per motivi politici, perché appunto si va a intaccare in qualche modo la solidità prospettica degli istituti del Nord Europa. A questo punto quindi si è attivata anche negli ultimi tempi sulla base di una spinta politica soprattutto italiana, bisogna dirlo, ma che ha trovato poi un accordo e un asse poi internazionale, perché quindi ieri al Parlamento a Strasburgo nella plenaria c'è stato un voto davvero abbastanza come dire, che ha trovato concordi diversi paesi e stati membri. Bene, a questo punto la partita è diventata ben più ampia e ovviamente si è capito che forse non si può trascurare questa analisi, questo approfondimento, che è di una parte enorme, rilevante davvero dei bilanci bancari. Tutto ovviamente dovrà essere analizzato con grande delicatezza. Perché quando parliamo di questa tipologia di componenti, di voci dei bilanci bancari, stiamo parlando di un mondo davvero eterogeneo. Mentre l'analisi fino ad oggi che ha fatto la Vigilanza Europea sui dettagli dei bilanci bancari era su tipologie di attive più omogenee, quindi più facilmente classificabili, pensiamo ai mutui immobiliari, pensiamo ai mutui residenziali o ai mutui commerciali, bene, c'è un mercato appunto liquido, un mercato che è facilmente in qualche modo riconoscibile, pensiamo alle vie, alle zone, alle città. C'è un po' più di trasparenza. Bene, quando andiamo a guardare gli attivi di livello 3, beh, lì non riusciamo a trovare una omogeneità appunto di analisi e quindi di modellizzazione sulla base della quale poi che prezzo può essere imputabile, no? Esattamente, perché immaginiamo che appunto una banca abbia sottoscritto un derivato su un accordo commerciale fatto magari a prestito stiamo parlando di magari una singola, magari un singolo attivo, una singola voce, componente di bilancio, ma che non sarà paragonabile a quella magari che ha evidentemente un'altra banca magari che ha sottoscritto a sua volta un'altra tipologia di derivato. Bene, questa diversità di attivi, che però si riconducono tutti a questo grande calderone che sono gli attivi di livello 3, bene, non trova facilmente una sua classificazione, ed è proprio su questo tema infatti che si sta in qualche modo discutendo all'interno della vigilanza europea, e in fondo non si riesce ancora a trovare il bandolo della matassa. Però insomma, la spinta anche politica, come tu ricordavi, è netta a questo punto su un tema obiettivamente di grande disparità nel trattamento delle valutazioni degli stress test. Adesso io lo dico da italiano, ma cioè, ovvio che se tu penalizzi, ma qui c'è anche Basilea, penalizzi ogni volta che una banca presta soldi a un imprenditore, lo consideri un investimento ad alto rischio e quindi devi accantonare molto, e vai a penalizzare le sofferenze e penalizzi meno, diciamo, tutti questi prodotti più opachi, non opachi perché sono illegali, opachi perché il prezzo sono stabilito in maniera tipicamente illiquidi, cioè nel senso che non si riescono, non c'è un mercato, e forse è proprio questo il problema. È sicuramente un punto che si può dire va a sfavore delle banche tedesche. Per una volta tanto si può dire che forse come dire, le banche del Nord Europa hanno dovuto accettare un compromesso che probabilmente non è esattamente a loro favore. Questo segnala però probabilmente anche un cambio forse di clima che si sta in qualche modo registrando ovviamente a livello europeo. Vedremo quanto questo ovviamente troverà poi una continuità nel corso del tempo, sì, ci sono dei cicli in questo momento, però probabilmente anche a Francoforte si sta accettando in qualche modo l'idea che forse anche questa tipologia, questo ammontare, questa certo, parte ingombrante insomma dei bilanci non possa essere del tutto trascurata nella sua analisi, perché alla luce poi questo è il grande tema. Quando ci sarà una crisi sistemica, beh, questa parte sicuramente, abbiamo visto ad esempio con la crisi di Lehman Brothers, ovviamente uscirà fuori. Grazie anche grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore. Adesso andiamo invece sul alcune delle buone notizie di oggi, le ho raggruppate all'inizio. Una riguarda appunto un investimento da 100 milioni di H Farm, visto che riguarderà le start-up in primo luogo, e giovani startup, non solo giovani, ma spesso le startup sono opera dei giovani. Vedo molti messaggi ancora sul tema dell'istituto tecnico per elettronici di Erba e anche dell'imprenditore veronese che non ha trovato persone. Allora, alcuni ascoltatori mi scrivono: mi occupo di selezione del personale per una banca importante, una delle poche che ancora assume, mi creda, quello che abbiamo letto sul giornale a proposito dei giovani, delle famiglie iperprotettive e deresponsabilizzanti non solo è vero, ma rappresenta in minima parte ciò che accade. Poi qualcun altro mi scrive, ho aperto 8 anni fa una piccola società ad Erba, da allora ho assunto una persona all'anno, quest'anno cercavo un under 29 e confermo che ho avuto 3 no da 3 giovani del territorio spaventati dalle trasferte previste dal mio lavoro. Alla fine ho assunto una persona che viene da Milano. Faccio presente che offrivo un tempo indeterminato e poi alcuni rispondono all'ascoltatore dicendo cosa c'entra il riscatto sociale. Un giovane che fa la scuola superiore come perito elettrotecnico può tranquillamente poi iscriversi all'università e può ambire a una carriera più che rispettabile, non è che tutta la vita devi fare lo stesso lavoro. Il problema temo che sia anche dei genitori, non solo dei ragazzi, perché a 14 anni io temo che sia anche molto dei genitori e della tendenza di questo paese a lamentarsi più che a fare in molti casi. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp. Traffico. Focus Economia. E allora restiamo, dicevo, sul tema dei giovani, perché le start-up riguardano, le società di nuova costituzione riguardano soprattutto i giovani, anche se non solo. Oggi presentato a Milano l'accordo da 101 milioni di euro, grazie al quale l'incubatore, lo chiamo così, H-Farm, riuscirà a, è una piattaforma digitale e incubatore di start-up creata nel 2005, darà avvio al progetto H-Campus, ossia scritto H-Campus, il più importante polo dedicato all'innovazione a livello europeo, sostenuto da Cattolica Assicurazioni, che detterrà il 56%, e Cassa Depositi e Prestiti nella versione CDP Investment SGR, che avrà l'altro 40%. Sarà inaugurato a settembre 2018, in grado di ospitare 3.000 persone tra studenti, giovani start-up, docenti, imprenditori e manager. L'area avrà circa 40.000 metri quadri di spazio, di edifici. Chiedo al fondatore e amministratore delegato di H-Farm, Riccardo Donadon, buonasera. Buonasera. Intanto, dov'è che l'area dove sarà collocata? Lo sviluppo avviene dietro di noi. Noi siamo a 10 km dall'aeroporto di Venezia, in questo paese che si chiama Roncade, dentro una tenuta agricola che oggi fa 1.800 ettari e noi ne occupiamo una ventina, di cui 12.000 sono già infrastrutturati con dei corpi che occupano già 300 persone. Andiamo a costruirne altri 27.000 su 30 ettari nuovi. Bene, Catron, no, non c'entra nulla Catron? C'entra. Catron è proprio questa frazione di questo comune. Allora, per dare un'indicazione anche diciamo di geografica, tra l'altro in un'area, parlo del nord-est, che da sempre lamenta l'assenza di un polo importante anche di carattere di ricerca, oltre che urbanistico, rispetto alla Lombardia che ha Milano, il Piemonte che ha Torino, insomma il Veneto e il Friuli hanno una maggiore dispersione proprio urbanistica, quindi la difficoltà anche ad avere dei poli di aggregazione. Senta, una prima battuta però, Donadon, visto che lei lavora moltissimo con anche i giovani, lei ha creato H-Farm quando aveva 38 anni e ha messo soldi suoi, no? Avete dato via almeno 100 imprese, ma la fotografia che arriva dal preside dell'Istituto per Elettrotecnici di Erba, che deve chiudere perché nessuno vuole iscriversi, o dell'imprenditore veronese della catena di sushi che non riesce a trovare ragazzi, lei vi si ritrova, o invece i ragazzi che vengono a lei, giovani, non vuol dire ragazzi, sono decisamente più motivati e quindi hanno voglia di fare e non cercano, tra virgolette, comodità? Ma allora, noi siamo fortunati perché vediamo, io dico sempre che è la migliore Italia, o comunque i migliori giovani, perché alla fine ogni anno vediamo circa 1 miliardo di iniziative, ne selezioniamo solo una decina che sono quelle che possono entrare, e questi ragazzi, pur di arrivare, pur di presentare le loro iniziative, fanno chiaramente un percorso a ostacoli. Però si presentano chiaramente persone super motivate, che hanno voglia di emergere, che hanno già abbastanza consapevolezza di quello che è il mondo che sta cambiando con il digitale. Quindi sono sicuramente una nicchia importante, ma comunque una nicchia dei giovani. Infatti il tema che noi stiamo affrontando della scuola è proprio per consapevolizzarne tantissimi, perché oggi hanno delle opportunità straordinarie, però devono rendersi conto che devono mettersi loro a capire e a sviluppare quella innata comprensione che hanno oggi per il digitale, per trasformarla in un lavoro. Ma da quello che lei vede, il problema, lo dico essendo anch'io genitore, ancora nella scuola dell'obbligo mio figlio, però insomma, il problema è della testa dei genitori, o in realtà, e quindi anche negli errori dei genitori, oppure c'è un problema di smarrimento generazionale vero e proprio, al di là del ruolo dei genitori? Guarda, è una cosa che è a metà strada, nel senso che la generazione dei genitori che oggi hanno 40-50 anni hanno una responsabilità enorme nel comprendere questo grande cambiamento che c'è in questo momento e indirizzare i propri ragazzi alle nuove professionalità e ai nuovi studi, perché se li fanno fare lo stesso percorso che hanno fatto loro stanno creando sicuramente dei disoccupati. Le scuole professionali sono interessantissime oggi perché c'è comunque una necessità di manualità, di cose, di saper fare le cose che è indubbia, però comprendere questa mutazione dei modelli economici, comprendere il cambiamento che è indotto dal digitale apre delle opportunità straordinarie per i ragazzi, è che dopo renderli consapevoli, quelli dopo il 95-96 ci cascano con una facilità incredibile perché sono proprio cresciuti col digitale, però non possiamo certo perdere anche quelli che sono nati prima, che sono comunque dei giovanissimi e che basta indirizzarli magari negli ultimi anni di studio a comprendere tutte le opportunità che ci sono nel cambiamento con le applicazioni che giocano tutti i giorni. Allora, Don Anton, lei resti con noi perché vorrei sapere dopo il GR24 quali intanto cosa dovrebbe diventare questo Edge Campus, da quello che ho capito non solo per i giovani, ma per tutti quelli che hanno anche un'idea di startup, e che cosa è l'obiettivo di mettere in questo campus assieme imprenditori, docenti e persone che hanno un'idea in testa. C'è una vecchia pubblicità in testa, un'idea meravigliosa, ma qui si tratta di svilupparla. E dall'altro si ci dà anche qualche consiglio ancora più dettagliato sugli errori che possono fare i giovani quando pensano a una startup. Guarda, leggo tantissimi messaggi sul tema, ne leggo solo uno. Sono un avvocato di Milano e confermo quello che ha detto lei. Sono un perito elettronico che ha lavorato e si è laureato di sera. Sono diventato avvocato con ampia soddisfazione. Appunto, non imbrigliamo nelle strade. Non è detto che se uno fa il perito elettrotecnico non possa poi fare l'università. Ma il mitico Giulio Sapelli, che alcuni di voi evocano anche oggi perché lo riporto in trasmissione, è diplomato come perito industriale, poi ha studiato, è diventato uno dei più grandi economisti italiani, insegna storia economica alla Statale di Milano, per cui attenzione. Comunque, torniamo sul tema dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo moltissimi messaggi sul tema della formazione dei giovani dopo i casi che abbiamo raccontato, però abbiamo ancora in collegamento Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H Farm, per appunto il progetto, l'accordo presentato oggi da 101 milioni di euro per costruire questo H Farm Campus assieme a Cattolica Assicurazioni e CDP Investment SGR nella zona appunto a Roncade. Donadon, che qual è l'obiettivo di questo campus? 40.000 metri quadrati, leggo studenti, giovani start-up, docenti, imprenditori e manager, e quali sono gli errori più comuni, più frequenti che lei vede fare in chi ha voglia di lanciare una nuova impresa? Allora, gli obiettivi sono quelli di creare un luogo, un polo che possa attrarre talento. Io credo che ci sia necessità in Italia di creare 4-5 luoghi così, dove polarizzare tutti i talenti che ci possono aiutare ad affrontare il cambiamento, sia italiani che anche dall'estero. Questo qui sarà un investimento molto importante e sarà anche un unicum internazionale, perché porrà di fronte al consumatore, ai giovani, un'offerta formativa che va dai 6 ai 25 anni. Quindi per la prima volta ci sarà la possibilità di avere una formazione completa con tante contaminazioni, come si diceva prima, sull'imprenditorialità, sul digitale, sulle imprese dei territori, in modo che quell'innovazione che andiamo a insegnare, che portiamo dentro l'aula, sia in grado anche di agganciare quella che è l'impresa dei nostri territori e portare alla risoluzione di quei need che servono a loro per il cambiamento. Poi questa cosa qui chiaramente ha una sua applicazione all'interno del nostro progetto, a fianco a un'anima che già fa servizi di trasformazione digitale verso le imprese e un'anima che è quella più lontana, che nasce nel 2005, che ci ha visto investire più di 25 milioni di euro in questi 12 anni per far nascere nuove imprese, come si diceva all'inizio, più di 90, dove abbiamo capito tante cose. È un po' difficile far nascere il B2C, le iniziative che vanno verso il consumatore finale, perché ci vuole molta finanza e ci vuole anche un mercato molto ampio. L'Italia è un mercato piccolino e non c'è tantissima finanza, anche se te la vuoi giocare su un piano internazionale ne serve molta di più. Quindi bisogna abbracciare quello che è il tema del B2B, quello che è il tema delle imprese del nostro territorio, che però fanno un po' fatica ad apprezzare questa cosa, c'è poca consapevolezza sull'urgenza di questi temi e quindi non c'è quel mercato di M&A che giustifica il fatto che ci siano tanti soggetti che investono, perché poi fanno fatica a dare concretezza al loro investimento e a trovare una via d'uscita. Comunque negli anni, io ho fatto parte anche della task force che aveva voluto il ministro Passera, sono state fatte tante cose, negli ultimi due o tre governi si sono fatte tante cose importanti. Adesso c'è questo decreto Calenda che è importantissimo, bisogna assolutamente che venga sfruttato perché termina alla fine dell'anno ed è una chance importante per le aziende per fare investimenti, come immagino che sia stato detto più volte. Lei si riferisce a ammortamenti e preammortamenti? Esatto, esatto. Quindi sì. 140% e 200%. Grazie, in bocca al lupo non solo a lei, grazie, ma a tutti i giovani e non giovani che faranno, che potranno usufruire del, quando sarà pronto, settembre 2018, speriamo sia in tempo, siamo in orario. Faremo di tutto. All'H Campus, grazie quindi al fondatore, ministro delegato di H Farm, Riccardo Donadon. Grazie, buona serata. Andiamo sulla borsa, oggi vi dovete accontentare di me, Saipem più 4% è il miglior titolo in un mercato come indice assolutamente poco mosso, più 0,16%, Parigi ha perso lo 0,50% invece, Francoforte meno 0,30%, Londra meno 0,30%, Dow Jones meno 0,12%, euro su dollaro quota 1,06%, dicevo Saipem più 4,10%, ricordati più 2,16%, Estima Cretonics più 1,70%, Terna più 1,5%, Enel pure come Leonardo Finmeccanica e ancora Italgas più 1,1%, Campari più 1%, fronte opposto vede Biperbanca perdere 3,40%, UBI il 2,44%, Prismian c'è un report negativo, perde il 2,20%, Yux Santaporte meno 1,70%, Luxottica meno 1,1%. Se andiamo sui migliori e peggiori, l'annuncio degli ordinativi da parte di Norwegian Cruise a Fincantieri spingono il titolo Fincantieri in rialzo del 6,45%, vale infatti sostanzialmente 5 miliardi, 4 navi ognuna da 800 milioni di euro. E ancora, per quello che riguarda i titoli che bene si sono mossi, cito anche Invest più 19%, Ross più 14%. Il fronte opposto vede invece l'aeroporto Marconi meno 11%, Sintesi meno 9%, Save meno 5,30%, Tecno Investimenti meno 4,40%, abbiamo già detto dell'operazione Save aeroporto Guglielmo Marconi. Faccio notare che sul fronte auto, dopo le immatricolazioni europee, è partito bene il mercato in Europa, più 10% a gennaio e più 15% gruppo Fiat Chrysler, che porta la sua quota a livello europeo al 7%, altalenante il titolo Exor, la controllante ha perso lo 0,60%, Fiat Chrysler ha perso lo 0,40%. Allora andiamo sul traffico e dopo parliamo di questa giornata in cui sono arrivate numerose notizie di investimenti. Ricordavamo quello della barile da 50 milioni, ve ne è un altro annunciato oggi da Conad, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, diciamo oggi Barilla, che annuncia di investire 50 milioni e assumerà 60 dipendenti per ampliamento dello stabilimento di Rubiano, uno stabilimento che il 75% lo destina all'export, sughi da pasta, sughi per pasta, e investimento anche annunciato da Conad per di 5 milioni di euro per un nuovo superstore. Vorrei, visto che ne abbiamo parlato anche due settimane fa per le difficoltà, c'era un articolo del Sole 24 Ore, per le difficoltà che ha la grande distribuzione francese Auchan e Carrefour in Italia, il motivo è che i francesi hanno insegnato, sono il modello della grande distribuzione già dagli anni 90, e si diceva non sono riusciti a collocarsi né nella parte bassa, quindi prezzi più bassi, nella parte alta della grande distribuzione. Vorrei fare il punto sui consumi anche, e oltre che sugli investimenti, con il numero uno di Conad, l'amministratore delegato Francesco Pugliese. Buonasera. Grazie a voi tutti, buonasera. Allora, Pugliese, voi avete fatto un investimento importante, continuate a fare investimenti nel territorio. Abbiamo raccontato però di una difficoltà di alcuni gruppi, soprattutto francesi, Carrefour e Auchan, in Italia. Intanto, come mai continuate a investire, visto che sul fronte dei consumi non stanno arrivando notizie, diciamo, eccezionali? Allora, guardi, noi innanzitutto siamo obbligati alla crescita e allo sviluppo. C'è da dire che il finale dell'anno scorso, quindi mese di dicembre, e questo primo mese di gennaio in generale nella grande distribuzione, si sono registrati finalmente dei dati positivi dovuti al Natale, ma soprattutto al mese di gennaio, trainati da un'inflazione che c'è nel mondo ortofrutticolo. I nostri risultati, toccando ferro e facendo tutti gli scongiuri come Conad, a parità di superfici di vendita, sono tre volte superiori a quello che è l'andamento del mercato, cioè stiamo procedendo a parità di rete al più 5, che è un dato sconvolgente, frutto anche degli investimenti, se vuole. Cioè la distribuzione italiana è una distribuzione che è frammentata, che ha strutture che sono vecchie, e chi rinnova, rimette a punto le macchine e continua ad avere attenzione e presenza nella valorizzazione dei prodotti del territorio, evidentemente in questo momento è premiato. Non è facile, ma la presenza al nostro interno di imprenditori che sono nel punto di vendita e che quindi riescono a ben implementare le strategie generali nazionali, ma soprattutto ad adattarle con quelli che sono i bisogni locali, evidentemente sta premiando. Ecco, su questo, che tendenze vedete voi nell'andamento dei consumi? Perché dicevamo a livello generale che stanno andando bene, dati alla mano, le fasce, diciamo, più low cost, potremmo chiamarla, quindi Lidl e non solo, ed Eurospin, e la parte alta, e di dare la sofferenza di alcuni gruppi, appunto, anche in particolare quelli francesi, che storicamente invece hanno insegnato, diciamo, a livello europeo, hanno fornito il modello negli anni scorsi della grande distribuzione, a partire dagli anni 90, della GDO. Quali sono le tendenze che voi registrate nei vostri punti di vendita proprio in tema di divaricazione dei consumi? Allora, guardi, in questo momento quello che sta accadendo è la seguente cosa. Nell'ambito delle superfici di vendita c'è una riscoperta delle spese legate al maggiormente alla prossimità, quindi vado a fare la spesa meno, più frequentemente e di minor impatto, perché questa è la possibilità che ho migliore di poter controllare quello che è il mio budget di spesa mensile. In questo devo dire che noi siamo avvantaggiati, avendo una forte preponderanza, siamo i leader nei supermercati e appunto nei negozi di prossimità, e quindi probabilmente è uno dei motivi che ci sta premiando. In difficoltà forte, ed è un trend tra l'altro che è europeo, sono tutte le grandissime superfici, quindi gli ipermercati. È chiaro che, visto che citava i colleghi francesi di Auchan e di Carrefour, è lì dove stanno registrando le sofferenze. Questo però si abbina anche a dei cambiamenti che sono strutturali nel modo di fare la spesa. Siamo in un momento di difficoltà per tutti gli italiani, è inutile che sto a recitare io i dati che conoscono tutti quelli che ci ascoltano rispetto alla sofferenza di alcune classi sociali e di aree della popolazione del maggiore impoverimento, però in realtà abbiamo nell'ambito dei prodotti, i prodotti di fasce più alte che stanno crescendo. C'è un'attenzione maggiore verso i prodotti naturali e questi sono tutti prodotti che hanno quella che nel gergo della grande distribuzione si chiama battuta di cassa, e quindi singolo costo per unità di vendita che è più alto. È chiaro che quelle aziende che riescono a essere più flessibili, più dinamiche nel seguire con velocità questi trend, portano a casa risultati interessanti ed importanti. È una battaglia continua ed è una sofferenza continua, ma soprattutto è una ricerca continua nel comprendere davvero quello che la gente richiede. E mi spiego meglio. Qualche decina di anni fa era l'offerta che guidava la domanda. Oggi invece devi essere bravo in termini di offerta a seguire quelle che sono le tendenze della domanda, e più sei veloce, snello e capace nell'adattare le tue politiche commerciali, meglio riesci ad ottenere risultati. Forse imprese succursaliste francesi meno, un po' più distanti da quelli che sono usi e costumi del mercato italiano fanno più fatica. Ecco, a questo proposito è difficile chiedere a lei un consiglio per invece il mondo del commercio che non rientra nella grande distribuzione, però da sempre questa polemica strisciante, cioè che la GDO vada a distruggere poi la rete di esercizi commerciali sul territorio. Se lei dovesse dare, mi rendo conto che è come dare un consiglio a chi rappresenta per voi anche una concorrenza, ma lei che futuro vede negli esercizi commerciali non GDO, quindi non di grandi superfici? Guardi, detto che non voglio apparire come quello che porta la corda a uno che ci deve impiccare, quindi cerco di dare delle valutazioni mie trasparenti e leali rispetto a questo fattore. Allora, due punti. L'Italia è in assoluto il paese meno moderno di tutta Europa. Ha una concentrazione di grande distribuzione che è agli ultimi posti, cioè c'è un fatturato di concentrazione che è lento. C'è una grande distribuzione che è in una situazione di, ci vorrebbe una legge quasi di rottamazione, cioè di grandi bisogni di investimento per rinnovare. C'è un'area, c'è una riscoperta del mondo della prossimità e soprattutto c'è un discorso. L'aumento delle famiglie monocomponenti, dell'invecchiamento della popolazione è una grandissima opportunità per i negozi piccoli e anche autonomi, che è quella dei centri urbani. Cioè oggi, e devo dire che noi per esempio come Coma stiamo guardando molto a questo fattore, stiamo vedendo anche che stiamo ottenendo anche degli ottimi risultati. Rivalutare i centri delle città con superfici piccole che rispondano a questi nuovi bisogni che sono legati a persone che invecchiano e molte famiglie di single, è un'opportunità rilevante se si piccolo, si indipendente se vuole, ma specializzato in questo senso e con un'offerta adeguata che non è la vecchia bottega di 50 anni fa, ma è un negozio moderno orientato a questi consumi, secondo me è una grande opportunità per il piccolo negozio. In più, e ricercare formule di aggregazione tipo la nostra, cioè ricercare delle insegne, imprese che ti possano dare una copertura in termini di know-how, marketing e di investimenti in chiave di comunicazione che ti consentono di avere un ombrello di salvaguardia per l'evoluzione nel tempo delle strutture distributive e quindi anche delle politiche commerciali. Si parla molto dell'e-commerce, è sicuramente un aspetto che sta andando a toccare in termini concorrenziali un po' tutto il mondo del commercio, però rimane un fatto: il commercio è una transazione ed è una transazione che nasce fra persone, quindi sicuramente avrà un'evoluzione questa dell'e-commerce, ma ci sono dei settori nei quali la presenza della persona in chiave di servizio rappresenta ancora e lo rappresenterà anche per il futuro un grande valore in termini di conoscenza, contatto, consiglio e se vuole calore. Mm-hmm. Ecco, un'ultima nota su questo invece, Pugliese, l'e-commerce che lei già citava, quanta concorrenza sta facendo anche a voi oltre che ai piccoli esercizi commerciali e come state rispondendo? Qui bisogna dividerle e guardarla. Perché noi abbiamo visto un e-commerce esplodere soprattutto però per i beni non di breve consumo, quindi più abbigliamento, libri, fruizioni culturali. anche prodotti di elettronica da consumo, meno devo dire sulla parte consumo alimentare, anche se nelle grandi città si stanno sviluppando tutto un insieme di, sono andati anche agli onori della cronaca per i bassissimi stipendi dati o pagamenti dati ai loro operatori, penso a Foodora ma non solo. Però dico, per ora l'e-commerce è sembrato toccare soprattutto beni non di fruizione immediata. Certo, anche perché lì è più semplice mostrare la competitività dell'offerta sia in termini qualitativi che quantitativi, in termini di prezzo, in maniera più rilevante. E in più, se mi consente, è diverso comprare un'insalata guardandola in una fotografia sul computer che non prendendola. Pensi che ancora oggi nel nostro di mondo, parlando appunto del mondo dei freschissimi, dell'ortofrutta, gran parte delle vendite sono non al libero servizio, ma confezionate e comprate lì sfuse sul posto. Pensi un po' su questo, che cosa significa in termini di impatto quando parliamo di e-commerce. Oggi l'impatto è molto basso. Tutti quanti noi stiamo facendo sperimentazione. Il tema vero è che quella fetta di mercato è una fetta di mercato che è in perdita interna dal punto di vista proprio della gestione del business, che queste grandi organizzazioni come Amazon, leggevo qualche giorno fa il rapporto economico di Amazon, in realtà Amazon perde nella vendita di questi prodotti. Qui sarebbe interessante, c'è un profilo anche di antitrust, com'è possibile che nell'ambito della grande distribuzione, per fare un sottocosto, ne possiamo fare 3 in un anno con 50 prodotti solamente, dobbiamo chiedere autorizzazione ai comuni, e invece organizzazioni come queste che viaggiano nella rete si inventano il Black Friday e fanno offerte che sono abbondantemente sotto costo, senza nessun tipo di comunicazione, fuori di qualsiasi momento. Potrei parlare dei saldi. Quindi qui il tema è più delicato, è sicuramente una minaccia, va regolamentata. E soprattutto ciò che è commercio che arriva attraverso la rete o attraverso il negozio fisico all'interno di un paese deve essere tassato nella stessa maniera, altrimenti deve avere le stesse regole che abbiamo dalle altre parti. Noi non possiamo tenere aperti i negozi fuori di certi orari, non possiamo aprire nell'ambito delle domeniche, invece l'e-commerce è praticamente un negozio a cielo aperto e è sempre disponibile. Tutto questo mi sembra un po' iniquo. Grazie, grazie al ministro delegato di Conad Francesco Pugliese. Grazie a voi e buona serata a tutti. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi, ci sarà la poco invidiabile classifica, è venerdì. E intanto da Sebastiano Barisoni vi auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.